Eccoli qui, in questo martedì 4 settembre. I titoli dei giornali sono molti declinati a quello che ha detto Angela Merkel ieri, un po' a sorpresa, vale a dire questa frase che farà molto discutere: i mercati sono contro i popoli, la finanza è contro i popoli. E allora il Sole 24 Ore, tra l'altro il Sole 24 Ore che oggi esce a 2 euro con allegato il libro Il Lavoro, come affrontare e superare la grande crisi, se lo volete, un tema ovviamente in questi tempi molto molto delicato. Il Sole 24 Ore, come detto, apre Merkel contro la finanza speculativa, mentre il Corriere della Sera, il piano antispread di Draghi. Per Repubblica, Draghi, così la BCE comprerà i bond. La Stampa, Draghi sia l'acquisto dei bond e la Merkel attacca i mercati. Anche per l'Unità, Europa passa la linea Draghi, mentre il Messaggero, Draghi sia l'acquisto di bond. Eccolo qui il manifesto, c'è Angela Merkel: asservire il popolo, i mercati distruggono la ricchezza del lavoro, arricchiscono pochi ai danni di molti, non sono amici del popolo. Questa è Angela Merkel che, dice il manifesto, non è passata a Occupy Berlino. Libero, battere Equitalia si può, ecco come. Mentre il giornale attacca così: Monti ci manda tutti in miniera, il governo pensa ai 500 minatori ma mette in ginocchio 60.000 piccole imprese. Il Fatto Quotidiano invece un'apertura politica: Grillo e Renzi, gli incubi del PD. Io però voglio partire da una notizia che oggi trovate molto sviluppata dai giornali. Ieri ci sono stati i funerali a Milano del cardinale Carlo Maria Martini, ex arcivescovo di Milano. Allora, i giornali pongono l'accento, come succede a 48 ore, come hanno fatto molti quotidiani, su quello che è definito anche oggi dal manifesto il cardinale più scomodo per la Chiesa cattolica. Certo, l'ultima intervista, che suonava come una sorta di testamento, che il cardinale Martini ha rilasciato e che è stata pubblicata dal Corriere della Sera proprio all'indomani della sua morte, nella quale parlava del lamento per una chiesa stanca, una chiesa rimasta indietro di 200 anni, sono parole dello stesso cardinale, con l'invito a liberare la brace dalla cenere, il bisogno di uomini che ardono in modo che lo spirito possa diffondersi ovunque. E ancora le domande di Martini: come mai non si scuote? Abbiamo paura? L'esortazione ad avere fede, fiducia, coraggio? Beh, certo, tutto questo in qualche modo ha spinto molti commentatori a definire quasi come se fosse l'antipapa o il vero papa per tutti coloro che non credono nella Chiesa attuale, nel percorso della Chiesa attuale. Beh, addirittura la polemica sui giornali è su questo. Per esempio, guardate Libero a pagina 15, Scola, cioè l'attuale arcivescovo di Milano, gela i cattocomunisti. Martini non era il vostro antipapa. Durante l'omelia, il successore del gesuita scomparso difende la fedeltà a Cristo con una precisazione: nella Chiesa convivono diverse sensibilità. Oppure anche il giornale, l'addio a Martini, uomo di tutta la Chiesa. Ma guardate, addirittura Iena, la classica rubrica, pagina 3 della Stampa, si concentra proprio su questo, in maniera molto polemica. Intelligenza. Se la Chiesa fosse un'istituzione intelligente, Martini ne sarebbe stato il Papa. Oppure in prima pagina del giornale è molto duro il commento di Mario Giordano, che scrive: Martini eletto antipapa da chi non va in Chiesa. Michele Serra, scrive Mario Giordano, noto biblista con laurea alla FIGC, ha definito il cardinal Martini il capo dell'opposizione della Chiesa. Il professor Guido Rossi, celebre per raggiungere livelli celestiali quando emette le parcelle, l'ha nominato a posteriori fan della giunta Pisapia. E Eugenio Scalfari è arrivato a fargli dire che fra pregare e pensare, in fondo, per un sacerdote non c'è nessuna differenza. Ora che i funerali si sono conclusi, si può dire che è impressionante il trattamento che i grandi giornali hanno riservato all'ex arcivescovo di Milano. Da uomo della gerarchia ecclesiastica, quale è sempre stato nel bene e nel male, l'hanno trasformato in una specie di santino dei radical chic. Questo è l'esordio dell'editoriale di Mario Giordano. Al di là delle polemiche, io vi voglio segnalare, secondo me, la cosa più interessante, la lettura più efficace, la lettura più bella che potete fare su questa vicenda è una lettera del nipote del cardinale Carlo Maria Martini, che viene pubblicata sia sul Corriere della Sera sia sulla Stampa. Sul Corriere della Sera la trovate a pagina 4, la Stampa la mette in prima pagina. Questa lettera di Giulia Facchini Martini, dal titolo sul Corriere "Così quel giorno ci ha chiesto di essere addormentato", racconta così a stralci: "Caro zio, zietto, come mi piaceva chiamarti negli ultimi anni, quando la malattia ha fugato il tuo naturale pudore verso la manifestazione dei sentimenti, questo è il mio ultimo intimo saluto. Quando venerdì il tuo feretro è arrivato in Duomo, la prima persona tra i fedeli presenti che ti è venuta incontro era una giovane in carrozzina, mi è parso affetto da SLA. D'improvviso sono stata colta da una profondissima commozione, un'onda che saliva dal più profondo e mi diceva: lo devi fare per lui e per tutti quei tantissimi uomini e donne che avevano iniziato a sfilare per darti l'estremo saluto, visibilmente carichi dei loro dolori, protesi verso la speranza. Lo sento, tu vorresti che parlassimo dell'agonia, della fatica di andare incontro alla morte, dell'importanza della buona morte". E poi racconta più avanti la nipote in questa lettera: "Avevi paura non della morte in sé, ma dell'atto del morire, del trapasso, di tutto ciò che lo precede. Ne avevamo parlato insieme a marzo e io, che come avvocato mi occupo anche della protezione dei soggetti deboli, ti avevo invitato a esprimere in modo chiaro ed esplicito i tuoi desideri sulle cure che avresti voluto ricevere, e così è stato. Avevi paura, paura soprattutto di perdere il controllo del tuo corpo, di morire soffocato. Se tu potessi usare oggi parole umane, credo ci diresti di parlare con il malato della sua morte, di condividere i suoi timori, di ascoltare i suoi desideri senza paura o ipocrisia, con la consapevolezza condivisa che il momento si avvicinava, quando non ce l'hai fatto più, hai chiesto di essere addormentato. Così una dottoressa con due occhi chiari e limpidi, un'esperta di cure che accompagnano alla morte, ti ha sedato. Seppure fisicamente non cosciente, ma il tuo spirito l'ho percepito ben presente e recettivo, l'agonia non è stata né facile né breve. Ciò nonostante è stato un tempo che io ho sentito necessario per te e per noi che ti stavamo accanto, proprio come è ineludibile il tempo del travaglio per una nuova vita". E, insomma, racconta, va avanti, la lettera è molto più lunga e è una bella lettera, ovviamente molto intensa, che racconta anche quello che è il momento finale, la scelta anche del cardinal Martini di rifiutare l'accanimento terapeutico e di arrivare appunto a chiedere la sedazione. Ecco, tra tutte le polemiche molto sterili, molto anche di basso profilo, a mio modo di vedere, sul volere incasellare una figura importante come il cardinal Martini in una tipologia di chiesa, in un'altra tipologia di chiesa, questa forse è la testimonianza più importante che vi lascio prima della pubblicità, dopo la quale torneremo invece a parlare di cose più terra terra, i mercati intanto, con questo j'accuse di Angela Merkel, che qualcuno ha detto: ma che ha fatto? Si è ammattita proprio Angela Merkel a dire i mercati non aiutano i popoli, tanto che c'è qualcuno che rispolvera il fatto che Angela Merkel è originaria della Germania dell'Est e rispolvera il tanto dimenticato compagna Angela Merkel. A tra poco. Allora, eccoci qua alle 7:34 minuti per continuare la lettura dei giornali. Sono giorni importanti per le decisioni della BCE, perché il 6 settembre si dovrà in pratica decidere qualcosa di importante sulla questione del salvare l'euro. Ieri Mario Draghi, verso prima di arrivare al consiglio della BCE, nella quale appunto si deve decidere di come salvare, anche come calmare i mercati finanziari, come illustrare pubblicamente lo schema che adotterebbero per eventuali acquisti di titoli obbligazionari sul mercato secondario per cercare di salvare l'euro, ecco che ieri Mario Draghi ha fatto un'audizione privata, nel senso non aperta alla stampa, dunque c'erano solo i parlamentari, al Parlamento europeo. E però si evince già qualcosa da questa audizione, visto come racconta Beda Romano sul Sole 24 Ore, a pagina 3, sotto il titolo "Draghi, acquisti di bond legittimi". Chiaramente le fonti sono i parlamentari che hanno ascoltato l'audizione di Draghi, e l'audizione a porte chiuse ha fatto capire che sono tre gli aspetti su quali Mario Draghi ha messo l'accento. Gli acquisti di obbligazioni, che secondo Draghi non equivarrebbero a finanziare se i titoli hanno una maturità fino a 3 anni, la situazione della liquidità della zona euro così frammentata da non poter permettere alla BCE di garantire la stabilità dei prezzi e la perdurante fragilità della congiuntura. Secondo le analisi dei giornali è passata o starebbe per passare la linea Draghi, che ovviamente dovrebbe essere confermata nel board della BCE il 6 settembre. Tra 2 giorni sapete che c'è anche una forte opposizione interna, per esempio della Germania, con il presidente della Bundesbank Weidmann, che un paio di giorni fa, qualche giorno fa, ha detto comprare obbligazioni appunto per salvare gli stati è come drogarli. E addirittura si vocifera che Weidmann abbia messo sul piatto della trattativa le proprie dimissioni in caso non dovesse essere approvata la sua di linea e dovesse invece passare quella di Mario Draghi. Sta di fatto che, secondo il retroscena pubblicato da Repubblica, firma Francesco Bei e Alberto D'Argenio in prima pagina, dopo questa audizione di Mario Draghi, Monti tira un sospiro di sollievo, perché secondo gli analisti, i 2 commentatori di Repubblica, i mercati stanno reagendo bene, è l'effetto Draghi. Questo è un virgolettato affibbiato a Mario Monti in rientro ieri a Roma, dove ha assistito ai funerali del Cardinale Martini. Ebbene, cosa ha detto Monti, cosa avrebbe detto Monti? È stato molto positivo l'intervento del presidente della BCE. A Monti è piaciuta anche la previsione del ministro delle finanze tedesco Schäuble sul fatto che la Corte tedesca poi alla fine non boccerà il fondo salva stati dell'Unione. Pende infatti una pronuncia della Corte Costituzionale tedesca. Un concetto che già la Merkel aveva anticipato a Monti mercoledì scorso e che ieri il ministro Moavero ha spiegato a Giorgio Napolitano in una visita al Colle. Insomma, secondo Repubblica, tutto verte per una linea che non dispiacerebbe all'Italia in questo board della BCE che si terrà tra 2 giorni. Ma certo, forse la frase che più ha sconvolto ieri e che è dibattuta oggi sui giornali l'ha detta Angela Merkel, la cancelliera tedesca. La cancelliera tedesca ieri si è presentata a una festa di partito, una festa nella quale qualcuno, ironizzando, ha detto ha bevuto anche molta birra. Ci sono infatti le foto di Angela Merkel con dei boccaloni di birra un po' ovunque sui giornali. Comunque ieri Angela Merkel è scesa in quella che viene definita anche la tana dell'orso, perché è andata al tradizionale convegno della CSU in Baviera, il feudo insomma dei cristiano sociali, che è il partito gemello della CDU, alleato inseparabile ma anche intransigente e aspro nell'opporsi agli stati in crisi. Insomma, è andato a parlare tra gli euroscettici e ha detto, che cosa ha ribadito? Che bisogna salvare la Grecia, che bisogna stare nell'euro, che bisogna avere ottimismo, ma poi ha detto questa frase sui mercati che sono contro i popoli. La colpa è dei mercati che sono contro i popoli. Beh, una frase molto molto emblematica e che fa mettere la Merkel in prima pagina del manifesto: a servire il popolo. I mercati distruggono la ricchezza del lavoro, arricchiscono pochi ai danni di molti, non sono amici del popolo. Ovviamente il manifesto ironizza e dice: bella scoperta, Angela Merkel non è passata a Occupy Berlino. Però c'è anche un commento di Alessandro Robecchi in prima pagina del manifesto, del titolo La compagna Angela. La stagione dei testa coda è lunga e complessa. Il compagno Fini, che mandava a quel paese il principale, era già una follia. Il compagno Monti, che usava la parola equità, era una visione. E ora come dovremmo catalogare il duro attacco della compagna Angela Merkel, niente meno che al Moloch più potente e inafferrabile del pianeta, il famigerato mercato che tremare il mondo fa? I mercati sono contro il popolo, ha detto la Merkel in Baviera, ospite dei soci cugini della CSU. A tonare contro i mercati che hanno permesso a pochi di arricchirsi e invece hanno impoverito la maggioranza è proprio Angela Merkel, e come testacoda non c'è male davvero. Controordine liberali, Avete presente quella manina che tutto sistema, che tutto livella, che lasciata senza regole se la lasci fare sistema tutto lei, tipo Padre Pio in stato di grazia che fa il miracolo? Ecco, invece era una falce sterminatrice, una specie di veleno che frega i molti per far felici pochi, pochissimi, anzi, che possono essere felici solo nella misura in cui gli altri patiscono. Liberisti di tutto il mondo, pentitevi. Se lo dice Angela, che del mercato ha fino a ieri tenuto la bandiera, la spada e i cordoni della borsa, chiedete ai greci, allora i casi sono due: o il testacoda è clamoroso e inaudito, oppure la tattica comanda e le elezioni si avvicinano. Ecco, forse è questa seconda teoria. Non è che si è ammattita Angela Merkel, non è che ha rispolverato quel compagno con cui forse veniva chiamata da giovane, anche se lei ha sempre negato, visto che è nata nella ex Germania Est, ma forse è tutta una tattica elettorale anche per rabbonire i cugini della CSU in vista delle elezioni. In ogni caso, i mercati sono contro il popolo, è la frase che trovate più diffusa nei titoli dei giornali, associata alla cancelliera tedesca. Riguardo a quello che succede in Italia, cari ascoltatori, uno dice: perché non leggi delle buone notizie? Ma sì, si possono trovare delle buone notizie, magari di cronaca, eccetera, ma qui è tutto un profluvio fin da ieri di il lavoro non c'è, le bollette costano di più, la benzina ha superato i 2 euro, è sempre peggio. Oggi guardate qualche titolo, non so, il Fatto Quotidiano, 1 milione di giovani chiede: oggi che faccio? I lavoratori under 35 sono calati del 20% in 5 anni. L'Italia è una repubblica fondata sulla speranza di lavoro. Così ironizza il Fatto, ironizza, ma c'è poco da ironizzare. In realtà raccoglie le storie di giovani non famosi, giovani italiani. Angelo Buonomo che dice: è impossibile trovare l'asilo nido per mio figlio, da Napoli. Giulia Minì di Torino che dichiara: sono infermiera ma ha chiamata. Elena De Marco da Reggio Emilia: fuggirò all'estero per vivere. Paola Bucciarelli da Latina: insegnare resta un sogno. Ma è così un po' ovunque. Il Corriere della Sera, che ieri lanciava l'allarme riguardo al commercio, al mondo del commercio, alle tantissime piccole imprese che rischiano di sparire, oggi raccoglie in maniera molto molto dura l'elenco di storie di persone che hanno dovuto chiudere negozi e crisi, le storie di chi non ce l'ha fatta. Pagina 10, botteghe storiche, nuovi esercizi, così il calo dei consumi sta colpendo i commercianti. A Milano il racconto dei verdurai che dicono: è impossibile continuare, abbiamo chiuso. Un negozio di abbigliamento a Bologna: mi arrendo dopo 56 anni. A Roma anche un negozio di abbigliamento: io vestivo i principi, ma ormai non ce la faccio più. Sono tutte storie con foto dei titolari che raccontano. E ancora a Napoli la libreria che dice: devo chiudere, l'affitto ormai chi lo paga? E c'è anche il presidente della Confcommercio Sangalli che fa un'intervista e dice: meno tasse o non si riparte. E questa è la situazione dell'economia. La politica che fa? Due cose. Non ci si mette d'accordo minimamente sulla legge elettorale ed è passata l'ennesima settimana che doveva essere la settimana decisiva per cancellare il porcellum, avere la nuova riforma elettorale, per avere la nuova legge elettorale, per avere non più i parlamentari nominati. Oppure in seconda decisione, cosa fa la politica? Litiga. Noi ne parleremo alle 8:30, ancora una volta volano gli insulti, c'è il grande dibattito sulla figura di Beppe Grillo. Guardate cosa fa oggi il giornale riepiloga, pagina 3, tutti gli insulti di Beppe Grillo agli altri. E Betino, Fallito, Salma, Rigor Montis, Aledanno, Forminchioni, Brunettolo. Vabbè, questi sono i più veicolabili in radio a quest'ora. Poi ci sono quelli anche un po' più pesanti. Ma insomma ce n'è per tutti, da Maroni a Fornero, che è frignero, ma anche principessa sul pisello. Su Ferrara, Fassino, De Magistris, Brunetta, Binetti, Bindi, Bersani, Berlusconi, Psiconano, Alemanno, oppure i parlamentari, larve ben pagate, eccetera. Però adesso Beppe Grillo è lui che dice: mi vogliono eliminare. Mi minacciano, ma è suo il manuale per pestare più forte. Questo è il titolo che trovate su Libero. Mentre c'è da dire che c'è un utilizzo, questo sì, sbagliato, che c'è di uno spezzone che gira di uno spettacolo di Beppe Grillo di qualche anno fa, nel quale viene addirittura accusato di essere razzista. Grillo anche razzista, schiaffia i marocchini, così titola pagina 8 l'Unità con l'articolo di Tony Ioppe. In realtà, se voi vedete tutto lo spezzone, certo, ha detto questa cosa, ma in un contesto ben diverso, nella sua maniera molto provocatoria. Quello peraltro era il Beppe Grillo che a me piaceva, che faceva anche molto ridere, era dissacrante e irriverente anche sulla politica. Poi è diventato negli ultimi anni un'altra cosa, ma noi ne parleremo alle 8.30. Dall'altra parte cosa c'è nel PD? C'è la vicenda Renzi. Renzi che adesso è in America alla convention democratica, vuol partire per le primarie e D'Alema sentenzia: Renzi è inadatto a guidare il paese. Tra poco. Allora, Renzi vuole le primarie, ma ieri l'ha un po' gelato il presidente del Partito Democratico Rosy Bindi, che ha detto: non è mica detto che ci siano le primarie. Al che Renzi ha replicato: ce ne faremo una ragione dei dubbi di Rosy Bindi. E poi è arrivato Massimo D'Alema a dire: Renzi è inadatto a guidare il paese, è sindaco di Firenze, onori l'impegno, gli ha suggerito anche Rosy Bindi. Cioè, i maggiori oppositori di Matteo Renzi sono all'interno del Partito Democratico, mentre lo sponsor di Matteo Renzi è Daniela Santanchè, che dice: tifo per lui, se vince lo bacio. Ecco, anche in questo sta un po' il disorientamento, se volete, magari non l'impazzimento, ma il disorientamento di un comune lettore che legge i giornali e dice: ma come? Ma perché Matteo Renzi viene ostacolato soprattutto da molti del PD e invece viene elogiato da Daniela Santanchè? Addirittura il Fatto Quotidiano mette in prima pagina questo titolo: Grillo e Renzi, gli incubi del PD. Beh, certo, sono le persone, Beppe Grillo e Matteo Renzi, che in questo momento stanno catalizzando l'attenzione. Attenzione, perché Vendola, tra l'altro, non lo dico come battuta, ma lo dico perché mi permette di passare all'altra notizia successiva che ho trovato interessante. Vendola ha annunciato: voglio sposarmi. Ovviamente la sua è anche una forzatura, nel senso che vuole porre l'accento probabilmente sulla mancanza in Italia di una legge sui matrimoni omosessuali. Però ha detto questo: a 54 anni voglio dire che mi voglio sposare con il mio compagno. Non voglio stare in un acronimo, forse riferito ai DICO o ai PAX, insomma le varie tipologie di acronimi che sono stati fatti per le proposte di legge mai concretizzate poi sui diritti civili anche per le coppie omosessuali, tra cui il matrimonio. Non solo ha detto questo, ha detto anche: noi facemmo cadere Prodi all'epoca, vabbè, risarciamolo candidandolo al Quirinale. Quindi Vendola ha detto due cose: Prodi al Quirinale e mi sposo. Perché questo mi sposo mi dà spunto alla notizia successiva? La trovate su Libero ed è una notizia che per certi versi ha dell'incredibile. Attenzione, l'articolo è di Fosca Binker, vale a dire l'anagramma di Franco Bechis, il vice direttore di Libero. Non li chiama DICO, nemmeno PAX, ma il succo è quello: dopo anni di lotte intestine al centro-sinistra tra cattolici e laici, rischia di arrivare proprio dalle fila del centrodestra la prima soluzione legislativa pratica in grado di regolare civilmente tutte le convivenze, comprese quelle tra omosessuali. E arriva, pensate da chi? Da chi meno ti aspetteresti, perché ad avere depositato in Senato un disegno di legge per introdurre nel codice civile il contratto di convivenza e solidarietà è, voglio tenere questa sospensione, indovinate chi è? Carlo Giovanardi. Ma come, si chiede Libero, un pasdaran cattolico come Carlo Giovanardi, uno dei leader del Family Day, è colui che ha depositato un disegno di legge per istituzionalizzare le coppie di fatto? Ebbene sì, a sorpresa, la sua idea è quella di deideologizzare la questione, scegliendo di risolvere i problemi delle formazioni sociali pragmaticamente nell'ambito del diritto privato, E così la proposta è quella di introdurre un contratto di diritto privato da inserire nell'ordinamento a metà strada tra i diritti riconosciuti ai singoli e il ruolo che la Costituzione assegna alla famiglia fondata sul matrimonio. Insomma, Giovanardi inserisce nel libro quarto del Codice Civile un articolo 1986 bis, qua siamo in dettagli tecnici, che definisce indipendentemente dal sesso dei contraenti e dalle loro motivazioni un contratto di convivenza e solidarietà attraverso cui due persone disciplinano i reciproci rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune e alla sua cessazione. Non può essere sottoscritto da persone che abbiano un matrimonio ancora valido ed è sciolto automaticamente se uno dei due si sposa. Naturalmente non sono cumulabili nemmeno più contratti di convivenza. È così? Cioè tutto il dibattito a sinistra verrà superato da una proposta dalla persona che dalla quale meno ti aspetti una cosa del genere, Carlo Giovanardi? Chi lo sa? Intanto questo oggi dice Libero. Per la cronaca, la notizia più interessante è sicuramente questa. Bobo Vieri, ve lo ricordate Bobo Vieri? Bomber di varie squadre. Ebbene, ha vinto la causa, almeno credo in primo grado, contro l'Inter e la Telecom come l'azionista dell'Inter, perché aveva accusato Vieri, la Telecom e l'Inter, di averlo spiato quando era un bomber dell'Inter per vedere che vita faceva, che posti frequentava, eccetera. Ebbene, a Vieri 1 milione di risarcimento da Inter e Telecom, dunque 1 milione di euro. Raccontano Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastella. No, ridevo perché insomma, l'Inter continua a pagare Vieri, questo è il dato di fatto, anche se per una causa, una cosa ben diversa. A pagina 19 Ferrarella e Guastella definiscono l'autogol più al rallentatore della storia, tirato nel 2000, impennatosi nel 2006 sui giornali, rimbalzato nel 2007 in tribunale, ieri dopo 12 anni insaccatosi nella porta giudiziaria dell'Inter. È un autogol al contrario. Non lo segna un calciatore alla propria società, ma è l'Inter a esserselo fatta da sola, dando mandato a Giuliano Tavaroli, capo della security di Pirelli e Telecom, di far pedinare il suo bomber Christian Bobo Vieri nel 2000 e soprattutto violarne la privacy fino al 2004, non con intercettazioni ma con accessi abusivi ai tabulati telefonici. Autogol che costa all'Inter 1 milione di euro. Questo l'ammontare del risarcimento al quale il giudice della 10ª sezione del Tribunale Civile di Milano, Damiano Spera, ha condannato non solo la squadra di Moratti, ma anche in solido la Telecom nell'era Tronchetti-Provera. E dunque aveva chiesto, credo, 12 milioni di euro a Telecom e 9,2 all'Inter, quindi voleva 20 milioni di euro più o meno, anche di più, Vieri, per danni patrimoniali, biologico e lesione alla privacy, perché gli aveva scatenato una depressione. E spiare Vieri costa 1 milione a Inter e Telecom. Questo è il dato di fatto, lo trovate così anche come titolo sul giornale, anche il quotidiano nazionale: 1 milione di euro a Bobo Vieri, spiato dall'Inter, è andato in crisi. Anche Repubblica: Vieri spiato e pedinato per 4 anni. Inter e Telecom paghino 1 milione di euro. Questo è il dato di fatto. Va bene. Ci fermiamo qui con la lettura dei giornali, ora è tempo di giornale radio e poi torneremo con Claudio Fava, candidato alla Regione Sicilia per Sinistra Ecologia e Libertà, e poi ancora alle 8.30 parleremo di Beppe Grillo e del linguaggio della politica. Con noi ci saranno Andrea Scanzi del Fatto Quotidiano e il deputato del PD Massimo Adinolfi. A dopo!